Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti da Anna Marino a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. È un appuntamento dedicato alla forza delle piccole e medie imprese che in fuga dalla crisi e totalmente immerse nell'economia della crisi trovano la via per uscirne grazie a nuove rivoluzionarie idee, rendendo concreta la parola innovazione per far nascere nuove aziende o start-up oppure per far ripartire quei settori tradizionali che ora annaspano. Sono idee costruite con le proprie mani, aiutate da incubatori, università, camere di commercio, business angels o per svilupparle, tradurle in progetti e fatturato. Ascoltare gli imprenditori che ci raccontano come hanno fatto in persona vale mille astuzie, istruzioni per l'uso, suggerimenti e dritte da imitare per chi vuole sviluppare un proprio sogno di impresa perché diventi realtà ma non sa proprio da dove partire, come iniziare e soprattutto come farcela. Oggi ci occupiamo delle dinamiche particolari che si muovono nelle imprese startup che si rivolgono non ai consumatori ma alle aziende, e cioè seguono un percorso B2B cercando di andare incontro alle esigenze reali delle imprese che vogliono svoltare il proprio business. Otherwise è una società innovativa la cui mission è di accompagnare organizzazioni e persone nella gestione del cambiamento. Otherwise, www.otherwise.it, è nata nel 2009 in piena crisi dall'unione di quattro professionisti provenienti dalla consulenza aziendale, dalla formazione professionale, dal management aziendale. Tre di loro, Giulio Di Santo, Francesco De Tommasi e Paolo Mazzaglia, sono stati per oltre 10 anni in una multinazionale leader del settore training e coaching. Il quarto, Marco Ceretti, dopo una lunga esperienza di management consulting presso un leader del settore, è stato poi dirigente nell'area vendite e marketing in una multinazionale americana del settore farmaceutico. Esperienza: oggi il team si compone di 8 professionisti, tutti appunto con esperienze di anni anche in aziende, loro stessi hanno vissuto il cambiamento. La parola a Giulio Di Santo per raccontare come è nata la loro idea anticrisi. La lampadina si è accesa di fronte a una birra. Intanto abbiamo messo a confronto diverse competenze e diverse esperienze fatte in azienda e abbiamo colto un bisogno del mercato, che era chiudere il gap tra organizzazione, processi e il comportamento delle persone. Questo gap che voi avete colto era un gap che non riguardava soltanto un'impresa ma tante imprese. Che esperienza avete avuto per avere questa intuizione e soprattutto come l'avete poi tradotta? L'abbiamo colta in questo senso, che le aziende possono provare evidentemente a uscire dal momento di crisi o lavorando sull'organizzazione, quindi sui nuovi strumenti e processi, oppure lavorando sulle persone. Spesso abbiamo notato che queste due attività non erano coordinate tra loro, e quando queste attività non sono coordinate il rischio è il fallimento. L'idea innovativa per noi era proprio cercare di creare coerenza tra la parte organizzativa e la parte culturale di azienda per l'implementazione delle strategie. Quindi vi siete messi un po' come un link tra queste dimensioni delle aziende e avete creato non solo un link virtuale ma un link reale, con attenzione rispetto alla, diciamo, formazione di chi partecipava a questo gioco interno delle aziende. Come avvengono le vostre sessioni? Devo dire che le sessioni hanno diverse sfaccettature e soprattutto sono costruite e co-create con il nostro cliente. Qualche esempio allora? Un esempio è piuttosto recente, dove abbiamo aiutato un'azienda ad integrare marketing e vendite. Solitamente il marketing produce numeri, statistiche, grafici, sviluppa delle analisi e li dà al venditore. Il venditore che cosa fa? A volte li legge, talvolta non li capisce e spesso non sa come usarli. Allora lì siamo intervenuti noi e abbiamo deciso di mandare i nostri manager a farsi una bella vacanza in un arcipelago virtuale ai tropici. Che cosa intendo dire? Intendo dire che abbiamo creato un evento gomito a gomito con il cliente, dove per 2 giorni il personale di marketing e vendita ha lavorato insieme nell'ambito di un business game. Il business game che abbiamo inventato è una simulazione che, da un lato, richiama tutte le logiche del mercato dell'azienda cliente, tant'è che l'arcipelago rappresenta le regioni commerciali in cui è diviso, dal punto di vista del cliente, il territorio italiano. E dall'altro, essendo un grande gioco a squadre, stimola e facilita la condivisione di quei meccanismi che in un contesto puramente professionale è più difficile comprendere e mettere in pratica. però a un certo punto la vacanza è finita. Certo, e il gioco di ruolo però è rimasto nel, diciamo, nella testa e nella vita delle persone. È un gioco di ruolo creato appunto su misura per le aziende. Quindi quando voi subentrate, insomma, è necessario che si formi una squadra di cui voi siete gli allenatori, ed è questa, diciamo, la vera innovazione che voi avete portato in tutte le aziende. Ma non è una squadra soltanto riservata a un settore, ma riservata a tanti altri settori dell'azienda stessa. Per sottolineare questo concetto, sicuramente facciamo spogliatoio. È un'immagine efficace come quella che avete scelto per spiegare la vostra idea di accompagnare appunto il cambiamento, quella di un terreno su cui deve crescere una pianta. Voi potete aiutare a seminarla identificando il tipo di cambiamento, potete poi farla spuntare seguendo la nascita e il lancio dell'innovazione, e infine supportarne la crescita e il consolidamento perché sia un cambiamento davvero radicato nell'organizzazione e nelle persone. Non sempre c'è la possibilità di lavorare con tutta un'organizzazione, questo ovviamente sarebbe il top, è il top nel momento in cui l'azienda vuole veramente cambiare il modo di lavorare, cambiare cultura. Però voi siete capaci di far comunicare settori uno con l'altro, e questa è già una cosa buona, perché molto spesso molte piccole comunicazioni vengono perse, questo è una perdita di efficienza che in questo momento di crisi non ci si può permettere. Questa è l'idea anticrisi. Certamente, questa è l'idea anticrisi, e facendo riferimento all'esempio che citavo prima, i primi risultati che stanno arrivando dal nostro cliente vanno proprio in questa direzione, cioè il piano operativo che le persone alla fine della vacanza di cui parlavamo prima hanno fatto va proprio nella direzione di integrare marketing e vendita, dunque c'è un effetto sulla motivazione delle persone che dunque sono effettivamente hanno voglia di mettere in pratica, di sperimentare poi sul campo. Quindi il ritorno dall'arcipelago è un ritorno che poi bisogna mettere a frutto, ed è un ritorno felice, insomma. È un ritorno felice nella misura in cui noi aiutiamo le persone, mentre loro stanno preparando i bagagli, a creare un piano d'azione concreto da portare nella vita di tutti i giorni. In mancanza di questo impegno personale, il tutto rischia di essere solo una bella esperienza. Avete anche utilizzato altre cose, tecnologia. Cos'è questa idea del tablet? Assolutamente. L'idea del tablet è proprio un'idea legata al fatto che innovazione passa attraverso l'azienda proprio per aiutarla a fare un passo oltre la crisi, e dunque abbiamo notato che le reti di vendita oggi vengono sempre più spesso dotate di questo strumento, dunque l'innovazione come fattore di vantaggio competitivo. Spesso però questo tipo di innovazione, mi riferisco al tablet, pone una sfida che è tanto semplice che può essere banalizzato. Il venditore all'inizio se ne innamora, poi dopo un po' si rende conto di non riuscire a integrarlo efficacemente nel suo lavoro quotidiano e quindi lo sottoutilizza. Faccio un esempio: sostituisce la tradizionale brochure cartacea una brochure elettronica che illustra attraverso il tablet. L'investimento dell'azienda, che però magari ha sviluppato anche delle applicazioni software di business specifiche, risulta svilito. E quindi, come Otherwise, noi lavoriamo con i venditori con l'obiettivo di integrare lo strumento con il loro comportamento di vendita. Cioè siamo convinti che lo strumento, quando ben utilizzato, possa potenziare la capacità di argomentare e di essere convincenti di fronte a un cliente, e dunque non sia un puro fattore estetico. E quindi affinché il tablet non rimanga soltanto un oggetto del desiderio, ma un oggetto utile anche per le aziende. Ecco, però questa è già la realizzazione dell'idea della lampadina che avete avuto e dell'idea che avete avuto di fronte alla birra. La realizzazione però, per essere portata avanti, ha bisogno di aiuti. Che cos'è che vi ha aiutato e cos'è che vi ha ostacolato? E quanto tempo ci avete messo dal momento in cui avete avuto questa idea? Devo dire che cosa ci ha aiutato, ovviamente la voglia di, intanto la voglia di fare e di mettere a patrimonio comune le esperienze fatte negli ultimi 15 anni circa. Quali esperienze, per esempio? Esperienze provenienti intanto dal mondo dell'azienda, perché dovendo rivolgerci alle aziende dobbiamo parlare lo stesso linguaggio, quindi ciascuno di noi ha avuto un'esperienza importante in quali campi? Tra i 6 e gli 8 anni all'interno di varie organizzazioni, vari campi, dunque abbiamo il campo della consulenza sicuramente, poi abbiamo il campo della vendita. Io sono stato un specialista di prodotto nel settore finanziario, assicurativo finanziario. In realtà l'esperienza più significativa, abbiamo collaborato e lavorato per parecchi anni nell'ambito dello sviluppo del capitale umano ed impresa, quindi siamo abituati a utilizzare questo tipo di strumento per creare delle sinergie con la parte più organizzativa e consulenziale per poter lavorare in maniera integrata. Ecco. Quindi il vero capitale di rischio della vostra azienda è la conoscenza, cioè la competenza. Assolutamente. Quindi, sì. Quindi è lì che praticamente sta il patrimonio sociale dell'impresa, e lì e che ovviamente voi potete suggerire anche a altre imprese che magari non devono investire grandissimi capitali, ma devono investire la propria conoscenza. Questo è il consiglio anche a chi volesse mettersi in proprio. Risultati fino adesso, diciamo, anche in termini di clienti, anche in termini di successi su progetti che avete portato avanti in questo tempo? Il nostro portafoglio clienti credo che sia intorno alle 25-30 aziende, alcune consolidate già da anni, altre invece che ci hanno scoperto proprio grazie a questo nuovo concetto che stiamo proponendo sul mercato. Ecco. I futuri sviluppi sono solo sulla linea tecnologica dei tablet, nel senso tablet a casa al lavoro o anche su altro? Beh no, i futuri sviluppi dovranno essere anche su altro, e ovviamente adesso il social network fanno da padrone, dunque sicuramente quello è un futuro sviluppo per noi, con attenzione evidentemente a non perdere quello che è il nostro core business, no? Che quindi è supportare le aziende nelle fasi di cambiamento, quindi lì dobbiamo stare. Ci spostiamo al sud Italia, anche se questa impresa spazia in tutto il mondo. Gioacchino Lavecchi è fondatore di Crowd Engineering, www.crowdengineering.com. Tutto è iniziato da due soci, Gioacchino Lavecchia e Massimo Piccioni, che è l'anima tecnica dell'azienda, e l'aiuto è arrivato da finanziamenti di due fondi, il fondo Principia di Quantica, www.principiasgr.it, e il fondo che fa capo a D-Pixel di Gianluca Dettori, www.dpixel.it, che ha investito nel seed, cioè quando esisteva soltanto l'idea. Il progetto è partito nel 2005 e ruota intorno a una parola, crowdsourcing, che allora era solo sussurrata, come racconta Gioacchino Lavecchia. Crowd Engineering è riuscita a individuare questa novità che stava serpeggiando nella rete ancora prima che avesse preso forma e avesse addirittura un nome. Quindi nel 2005, prima ancora che la società esistesse, i fondatori, dall'analisi e dall'esperienza che avevano della rete, avevano capito che c'era questa possibilità di produrre valore facendo collaborare le persone, e hanno capito che c'era la possibilità di farci anche del business, quindi di creare un modello di business e quindi poter creare un'azienda su questo fenomeno. Rivolgersi in modo ampio a crowd, alla gente, alla folla, è nato anche dal fatto che molte aziende nel momento di crisi cercano di non produrre tutto all'interno, ma di dare all'esterno, fare outsourcing, e cercano in qualche maniera di far fronte alla crisi snellendosi. Voi siete intervenuti in questo? Corretto, anche se quando siamo partiti forse non c'era questa forte spinta all'outsourcing, perché insomma c'era una situazione ancora un po' più tranquilla, diciamo che la reale esigenza è arrivata subito dopo. Però quello che c'era già era quella che era la stessa anima di Internet. Internet è nata come collaborazione. Per chi non mastica, diciamo, Internet, e per chi non mastica ancora, purtroppo, le nuove tecnologie, cos'è il crowdsourcing e che cos'è la vostra idea? Crowdsourcing è semplicemente la possibilità di far fare agli utenti che sono su Internet, che sono nella rete, pezzi delle attività che noi quotidianamente svolgiamo all'interno delle proprie ditte, delle proprie aziende e delle proprie multinazionali. Quindi la possibilità effettivamente di fare un outsourcing non utilizzando delle società di outsourcing, ma dando dei piccole parti delle attività che compongono il totale a dei contributori, a dei lavoratori che sono dall'altra parte della rete, che sono degli utenti internet che hanno del tempo e dell'esperienza, della competenza per svolgere questa attività. Quindi senza tempo né spazio si cerca quello di cui si ha bisogno all'interno appunto della rete, e voi aiutate, come dire, a mettere insieme domanda e offerta in modo amplissimo. Cos'è che vi ha portato a sviluppare questa idea? Quanto tempo ci avete messo e chi vi ha aiutato? Che cosa vi ha aiutato? Noi siamo partiti come un'idea, tipica idea di garage, tipica idea della startup, nel 2005, quando facevamo tutt'altro lavoro, i fondatori lavoravano per grandi aziende. È stata incubata per 3 anni con tutta una serie di prototipi, di studi che facevamo nel tempo libero, fino a decidere alla fine del 2008 di dedicarci a tempo pieno a questa idea. Quindi quello che abbiamo fatto per rendere possibile la partenza di questa avventura di business è stata quella di individuare degli aiuti, e questi aiuti sono stati forniti da fondi di cosiddetto seed capital. Sono praticamente dei finanziatori, dei venture capitalist che investono in idee i primi passi della loro avventura di business, le cosiddette aziende early stage. Questi fondi forniscono degli aiuti finanziari, quindi prendono la partecipazione dell'azienda e investono sull'idea. I siti internet che volete segnalare rispetto appunto a questi fondi per chi vuole informarsi? Di questi fondi ce ne sono parecchi, sicuramente la società di Pixel è una delle più attive in Italia, quindi di Pixel.it, presente in molte delle attività di nuove aziende, quindi di start-up sul mercato italiano. Subito dopo però è necessario accedere a dei fondi magari più ingenti, più importanti, per poter invece far crescere la propria idea, farla diventare una vera e propria azienda e soprattutto per supportare lo sviluppo internazionale. Vi ricordiamo l'appuntamento di quest'estate, Voci di Piccola Impresa, che andrà in onda a luglio ed agosto, il sabato alle 13.15, con le idee anticrisi, i consigli e le dritte e le storie raccontate dagli stessi imprenditori per ripartire con grinta. Un saluto da Anna Marino.